L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati da Laura Bettina, una nuova puntata dell'Altro Pianeta, una puntata in cui siamo lieti di tornare a parlare di Smart City. Smart City in particolare nella città di Milano, che tra l'altro ha un gran bisogno di diventare davvero smart anche nelle pratiche, non solo a parole. Per parlare di questo, per parlare di tutto questo progetto, con noi ci sono Andrea Schipar, presidente Green City Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Giovanni Sala, presidente Archimede Energia. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, Smart City a Milano in questo momento significa Smart City Point. Chi vuole di voi presentare questo progetto? Kipar, forse più compete a lei, a Green City Italia, no? Ecco, Green City Italia si è fin dall'inizio proposto di promuovere le pratiche cosiddette green nelle città ad alta densità abitativa, e qui a Milano credo che sia un po' il simbolo della alta densità sia produttiva che abitativa. Perciò l'idea nasce da un connubio tra il presente, storia e il futuro, e insieme all'Associazione dei Castelli Villaperti in Lombardia, che ha proprio la sede in una porta daziale di Milano, si è pensato di proporre un primo Smart City Point a Milano, proprio una sede che segna un po' il passato, dove si doveva pagare ancora il dazio per entrare nella città. Invece qui il dazio lo paghiamo al non essere abbastanza smart tante volte. Ecco, e oggi le città, per diventare smart, conoscono anche un tema del gratuito. Insomma, noi tutti offriamo dei servizi, la città offre dei servizi, spesso viene maltrattato perché offre i servizi e i cittadini o gli usufruitori dei servizi non si rendono conto che tanti servizi sono appunto gratis e sempre di più diventano preziose per svolgere le nostre attività quotidiane. Poi svilupperemo bene magari nel dettaglio di che si tratta, ma ci dia un'idea. Smart City Point, uno arriva e cosa fa, cosa vede, cosa c'è lì? Per ora vede un casello daziario nella città di Milano, e nella fattispecie il casello di Porta Nova, sistemato con due boschetti del respiro, perché la Smart City, spesso noi diciamo l'intelligenza smart non si vede, ma da qualche parte si deve pur manifestare. Allora è chiaro che poi la Smart City, se non si manifesta in uno spazio pubblico ben organizzato con un verde non solo rappresentativo ma anche ecologico, non è certamente smart né green. Perciò due bei boschetti del respiro, un casello sistemato ad arte con le sistemazioni esterne all'interno di un grande progetto di trasformazione urbanistica che vede coinvolto il più grande operatore in questo momento che sta lavorando in Italia, che è Heinz Italia, un gruppo americano che sviluppa appunto il master plan di Porta Nuova. Quindi in questo momento il tema è sicuramente, almeno quello che si può diciamo affrontare lì, è sicuramente interessante per i residenti di Milano che saranno direttamente coinvolti, ma anche per tutti gli altri che possono approfondire alcune questioni specifiche, immagino. È proprio questo, la piattaforma, che quando poi è la piattaforma di dibattito che ci manca. E la Smart City ancora è un dibattito tenuto dai grandi gruppi industriali, dalla Unione Europea, ed è molto tecnico. Noi siamo convinti che questo tema deve atterrare nella cittadinanza. Allora, per fare questo bisogna poi uscirne fuori dalla tecnologia pura, andare laddove le persone, i cittadini si incontrano e hanno voglia di dibattere, di sentire le informazioni, di documentarsi, ed è questo è proprio il punto ideale. Perciò avere un punto nella città in cui si comincia a dibattere mese per mese, in cui si trova delle informazioni mano a mano, questo vuol dire avvicinarsi alla cittadinanza con una tematica come la Smart City, piuttosto complessa, piuttosto tecnologica, che però alla fine tutta questa tecnologia ci deve aiutare per aumentare la qualità della vita urbana nella nostra città. Senta, si parte dalla trasformazione urbanistica al momento, quali altri temi ci saranno poi da affrontare nello Smart City Point? Ecco, nella Smart City Point è il tema dell'energia rinnovabile, il tema del traffico, il tema del verde, il gran tema del rapporto tra città consolidata e terreni agricoli e paesaggi intorno alle città. Questi sono i grandi complessi che vengono affrontati e che in fondo sono quelli che articolano un po' l'idea della Smart City e possono essere declinati di volta in volta a un dibattito che il residente in una città possa capire, possa farsi proprio, perché alla fine la Smart City è una città di persone intelligente e non solo di sistemi intelligenti. Giovanni Sala, presidente Archimede Energia, il vostro coinvolgimento in questo progetto? Sì, allora ci è stato richiesto di dare un aiuto specifico che pensiamo possa essere utile per dare forma, come lei giustamente diceva, a questo Smart City Point, perché è un concetto immateriale che dobbiamo poi tradurre in qualcosa di effettivamente tangibile in cui tutti possono immedesimarsi. Allora i temi sono stati che noi abbiamo proposto a una serie di possibili partner che abbiamo coinvolto proprio in questi ultimi tempi per cercare di sensibilizzarli, per offrire loro qualcosa di straordinario a cavallo appunto tra la città moderna e la città consolidata storica, sono stati quello delle energie rinnovabili e in particolare quello della microcogenerazione, che è un tema molto caro che coinvolge tra l'altro anche il grosso supermercato che è lì vicino, che può mettere a disposizione caldo e freddo per questi caselli daziari, che ovviamente sono in condizioni tra l'altro costruiti nel 1810, quindi con delle caratteristiche ovviamente piuttosto obsolete, che però grazie a queste nuove tecnologie potranno rivivere anche nelle loro funzioni interne. Abbiamo pensato anche del microeolico, abbiamo pensato anche a cercare di favorire il tema dell'interscambio, perché siamo al confine con l'area C, e quindi abbiamo la possibilità di mettere un car sharing che sia basato su auto elettriche, e stiamo cercando di portare avanti anche con un produttore di bicicletta pedalata assistita, quelli che tutti conosciamo, che sono quelle bici chiamate biciclette elettriche, che di fatto in cui il motore entra in aiuto del ciclista quando questo pedala, quindi non sono dei motorini elettrici ma sono delle vere biciclette, come tutti sappiamo, molto utili perché facilitano, agevolano anche chi è un po' pigro magari, e in questo modo rende più facile la sua deambulazione con la bicicletta elettrica. Quindi il tema della mobilità sostenibile è affrontato con degli esempi concreti, il BikeMe tranquillamente può avere un suo spazio sempre in questa piazza che, come ricordava Andrea Schipar, è appena stata sistemata, quindi un primo segnale concreto per la cittadinanza è arrivato. L'altro tema è quello della creatività, stiamo cercando di coinvolgere sia importanti nomi dell'architettura sia giovani, perché il Comune ci ha assicurato che diventerà anche un luogo per gli artisti di strada, e quindi potranno esprimersi in questa bella piazza rinnovata anche i giovani che hanno qualcosa da proporre alla città in un luogo emblematico. E l'ultimo tema è quello che ci è stato anche sollecitato dai residenti, perché abbiamo già avuto degli incontri importanti per il loro coinvolgimento, ancora di fare un'isola Wi-Fi in cui chiunque possa connettersi e sostare in questi due dei boschetti del respiro appena costituiti. Quindi tanta, veramente tanta carne al fuoco. Vedo già l'interesse dei residenti, che è un bellissimo passaggio, perché è così che si possono diffondere queste buone pratiche. Voi li avete contattati o siete stati contattati? Ma è stato molto simpatico, come hanno visto in questi recenti giorni questa sistemazione e questi incontri che abbiamo organizzato legati appunto alla partecipazione e coinvolgimento del Comune. E tra l'altro recentemente il Comune ha fatto una delibera che vorrebbe proprio insediare negli 8 caselli daziari, quindi questo è uno degli 8 caselli di cui Milano dispone, inserire proprio dei punti di accoglienza per i turisti, dei punti di scambio di informazioni, e quindi ci è stato detto proprio che questa nostra proposta Smart City Point può diventare un prototipo proprio anche per gli altri caselli daziari. E il cittadino ovviamente, che è a cavallo di questa trasformazione che ricordava Andrea Schipar di Porta Nuova, e vive quindi questa trasformazione in un modo un po' come si può dire incerto, non sa bene cosa succederà, se veramente questa trasformazione verrà completata, se la città, questo luogo così bello ma anche un po' trascurato, diventerà veramente vivibile al 100%. Hanno visto in questa occasione, è un'occasione straordinaria, e quindi ci hanno sollecitato e ci continuano a sollecitare con iniziative di rivitalizzazione, e il loro coinvolgimento per noi sarà fondamentale. Green City Italia, di cui mi onoro di essere parte del comitato scientifico, è effettivamente uno strumento di coinvolgimento per avvicinare i cittadini al tema della città verde, della città smart e della qualità della vita. Senta, Milano in questo a volte molto innovativa e a volte un po' indietro. Non le pare che abbia due velocità, insomma, sia un po' disomogenea, ecco, nelle sue scelte? Ma io concordo pienamente con lei. Abbiamo delle capacità estremamente unica e straordinaria di avanzare, e non le nascondo che a questo punto mi aggancio col tema dell'Expo. Infatti, lì vi portavo. È un tema che trovo straordinario, perché come sappiamo l'Expo punta, dopo aver giustamente sottolineato i due grandi temi del nutrire il pianeta, dell'energia per la vita, oggi punta a una Smart City pronta ad accogliere i 20 milioni di visitatori previsti in un modo smart, in un modo integrato. Ecco, quello che noi con questo Smart City Point vogliamo anche far capire, che non bisogna dimenticare anche il rapporto con la campagna, il rapporto con territorio non urbanizzato, che è un territorio prezioso intorno a Milano, dove pensiamo che il visitatore Expo possa trovare in concreto quello che troverà in piccolo esemplificativo dentro nel sito Expo, potrà trovarlo nella nostra meravigliosa campagna, che nonostante tutte le aggressioni di questi ultimi decenni è ancora vitale, è ancora ricca di episodi straordinari sia di cultura, sia di natura, sia di agricoltura. E quindi in questo senso abbiamo coinvolto in questo Smart City Point anche gli agricoltori, abbiamo coinvolto il distretto neorurale, che sono queste nuove iniziative promosse dalla Regione Lombardia, della provincia di Milano, per coinvolgere gli agricoltori in queste nuove funzioni, quella che si chiama la multifunzionalità del territorio rurale, e in questo senso noi potremo veramente rappresentare un punto di riferimento, un nuovo punto di riferimento del rapporto tra città e campagna. Ecco che pensiamo quindi che sia importante parlare di Smart City, ma anche di Smart Country, ossia un territorio agricolo che si integra nelle sue funzioni, nelle sue esigenze, nelle sue capacità, anche con la città, in un modo intelligente. E questo è uno dei requisiti perché il visitatore Expo possa veramente dialogare, possa veramente muoversi liberamente, non solo a Milano, ma in tutto il territorio lombardo, in tutto il paese. Vi chiedo qualche istante di pazienza, perché adesso abbiamo le informazioni per il traffico. Andrea Schipar e Giovanni Sala restano con noi. Subito dopo proseguiamo a discutere, parlare di Smart City Point. Come promesso, proseguiamo dopo le informazioni sul traffico. Parliamo oggi di Smart City Point, la sperimentazione in corso a Milano. Con noi ci sono Andrea Schipar, che è il presidente di Green City Italia, e Giovanni Sala, che è il presidente di Archimede Energia. Schipar, quella di Milano appunto è una sperimentazione, il primo, ma potrebbero essercene altri di point così in Italia in futuro? Sì, è proprio pensato come se fosse una prima applicazione di un modello europeo legato alla comunicazione con il livello cittadino, da replicare in altre città. Due o tre settimane fa l'abbiamo discusso a Torino, della Smart City di Torino, poi c'è Genova, poi ieri ero appunto a Berlino a dibattere su questo tema della Smart City in una città capitale europea. Perciò è il tema europeo che ha bisogno, per essere applicato a livello cittadino, ha bisogno dei moderatori. Smart City Point si offre proprio come una piattaforma di moderazione tra una visione tecnologica del nostro futuro a una visione, io chiamerei più atmosferica e sociale del nostro vivere. Che poi vanno comunque, devono andare di pari passo, perché altrimenti da sole non danno prospettive future utili per tutti. E proprio questo è il tema che preoccupa in fondo un po' chi fa oggi la politica e chi cerca di trovare le decisioni e le soluzioni giuste. Da un lato avere delle posizioni troppo lontane tra di loro per essere capaci di comunicare tra di loro, dall'altro di avere i cittadini impazienti di azioni concrete. Cioè, Milano ha dimostrato che la semplice apertura di uno Smart City Point ha fatto venire fuori tutti i residenti, ha fatto venire fuori interessati a dibattere, a scambiarsi delle idee e a darsi dei appuntamenti anche per il futuro, ed è questo un po' quello che serve in un mondo di pieno di formalità, avere anche punti di incontri informali che servono semplicemente a conoscere la materia sulla quale si sta. Io direi informali ma anche informati, perché c'è tanta confusione e disinformazione su questi temi. Informati soprattutto, perché sì, c'è tanta confusione, c'è ancora pochissima comunicazione seria a livello cittadino, ed è chiaro che in questo momento il tema delle smart city è un po' in mano ai grossi gruppi industriali che intravedono già i loro business giustamente. Invece per applicarlo ci vuole il consenso dei cittadini. Se i cittadini non partecipano, questi sistemi intelligenti non potranno entrare in vigore. Questo vale per l'area C, come l'abbiamo visto qui a Milano, questo vale per tutte le indicazioni legate alla gestione, per esempio anche del verde urbano, la delibera del Milano sui orti urbani, sul verde urbano, cioè sono elementi, azioni lungimiranti che però trovano la giusta applicazione solo se cadono su un lettino di semina ben informato, ben preparato. Giovanni Sala, lei diceva prima fa parte anche del comitato scientifico, vero, di Green City Italia? Sì, è un comitato che raccoglie competenze di varia natura, da quelle più proprie del paesaggio a quelle più energetiche, a quelle dei rapporti con l'Unione Europea, a quelle anche nel campo medico, perché non dimentichiamoci che queste soluzioni smart sono finalizzate a alcuni obiettivi fondamentali, quello della riduzione dell'inquinamento atmosferico, quello quindi riduzione delle emissioni, quel grande tesoro che abbiamo del risparmio energetico. Rapporti con altre associazioni, gruppi di esperti che ci sono in città, perché a Milano non mancano, li state intessendo, sono già presenti? Ma in effetti noi diciamo che da 30 anni siamo presenti su Milano e abbiamo sempre avuto questa doppia caratteristica di dialogare con la pubblica amministrazione, avendo però sempre nel cuore e a fianco a noi la società civile. Ecco, io in questo senso quindi diciamo che abbiamo già coinvolto diverse associazioni cercando proprio di trovare tutti coloro che per un motivo o per l'altro hanno a cuore questo tema della qualità della vita e hanno la necessità di creare appunto un punto di riferimento dimostrativo chiaro. Kipar, a proposito di Expo, lei come immagina questo Smart City Point nell'anno dell'Expo? A che punto ragionevolmente sarete del vostro lavoro? Sì, o cosa vorrebbe ovviamente che percorso, fosse? Sul percorso verso l'Expo 2015 manteniamo la nostra linea di far crescere non solo il dibattito ma anche le azioni. Milano avrà nei suoi caselli daziari che esprimono la antichità, insomma il passato, avrà delle posizioni del futuro. Questo è molto importante perché non dimentichiamo, e lei parlava giustamente prima di associazioni coinvolte, l'associazione coinvolta che ci segue da anni è l'associazione Interesse Metropolitani, che sono quelli che hanno promosso i raggi verdi a Milano, ed è non a caso i raggi verdi, strategia già presentato fino a Strasburgo come gran modello, sono 8 e partono dai caselli daziari e vanno proprio in quel paesaggio anche agricolo di cui parlava prima Giovanni Sciala. Perciò se solo riuscissimo a rappresentare in monumenti di indiscutibile bellezza punti del nostro futuro, se iniettare questo tema tra passato e futuro nella nostra presenza quotidiana, noi saremo già molto molto felici. Green City Italia è parte di una rete internazionale, no? Green City, chi è un punto di riferimento nel panorama internazionale? Ecco, per esempio i nostri amici di Londra, i nostri amici inglesi. Che bello che una volta non mi hanno detto Germania. Ecco, io non cito da buon tedesco, non voglio citare subito la Germania, ma inizio con i nostri amici inglesi che a Londra hanno saputo inserirsi bene nel dibattito delle Olimpiadi, che è un'Olimpiade di tutto smart, si potrebbe dire, ci hanno sempre consentito di essere informato sulle nuove pratiche di applicazione nel paesaggio urbano. E questo vale per i olandesi, vale per i francesi, ed i tedeschi sono molto, i miei connazionali, molto attenti sul cambiamento climatico e sulla grande rivoluzione energetica. Quindi ciascuno lo sta declinando ovviamente secondo le priorità del paese. Secondo le priorità del paese. Se guardo al punto dal quale siete partiti allo Smart City Point di Milano, mi pare di capire che la priorità sia la trasformazione urbana e il rapporto tra città e campagna. In questo momento è questo. Noi aderiamo in pieno a uno slogan che si fa largo, che dice semplicemente due cose molto semplici: sì alla rigenerazione urbana, no al consumo del suolo. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che abbiamo già tutto all'interno delle nostre città, dobbiamo semmai razionalizzarlo, dobbiamo semmai sostituirlo, dobbiamo semmai sistemarlo, e questo è il grande tema dell'architettura del futuro, ma dovremmo tentare di rimanere all'interno del nostro tessuto così già ben sistemato. Citiamo sempre l'Italia, l'esempio delle 100 città che sanno già agire in un tessuto urbano piuttosto densificato. Le do solo un dato che mi porto sempre dietro: a Milano 8.000 persone a chilometri quadrati, a Berlino appena 2.500 persone a chilometri quadrati. Perciò, per darvi l'idea che il sistema di convivenza in Italia è già ampiamente sperimentato in una misura ecologicamente e energeticamente corretto. Sala, ho sentito che anche lei voleva dire qualcosa su questo punto. Beh, questo tema del rapporto con la campagna è un tema che mi è particolarmente caro, perché non dimentichiamoci che abbiamo sul tavolo due grandi opportunità. Allora, uno è quello della sicurezza alimentare. La popolazione mondiale è arrivata a circa 7 miliardi, abbiamo una previsione arrivare nel giro di pochi decenni a 10 miliardi, e quindi naturalmente questa campagna, che abbiamo sempre un po' trascurato e maltrattato, è una campagna preziosa, una campagna che dovrebbe garantire al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti una alimentazione sana, un'alimentazione decorosa, che non potrà basarsi solo sull'importazione dai paesi terzi, che ovviamente hanno degli standard qualitativi e di sicurezza del controllo sulla sanità e sull'uso corretto di pesticidi antiparassitari che non è confrontabile con quello che viene fatto in Italia. Quindi questo rapporto città-campagna, dobbiamo prendere consapevolezza della indispensabilità di un territorio rurale sano produttivo e non abbandonato a suo destino o non oggetto di conquista speculativa di costruzioni. Ricordo che Milano, la provincia di Milano, qualora dovesse smettere di ricevere derrate alimentari dal tutto il resto dell'Italia o il resto d'Europa, dopo 60 giorni saremmo alla fame. Cioè l'autosufficienza alimentare della provincia di Milano è di 60 giorni. In questo senso, quindi, questo rapporto di campagna deve per forza cambiare, non più terra di conquista, ma patrimonio indispensabile sotto questo profilo. L'altro punto, l'altro aspetto, è quello che l'unico turismo, l'unica possibilità di turismo in crescita negli ultimi anni, per ovvi inevitabili problemi economici, è quello il turismo così chiamato di prossimità, il turismo verde. Questi sono dati del Touring Club italiano, che ha visto un incremento del 7-8% di questo tipo di turismo. Ecco allora che questa campagna alle porte di Milano, che ha abbazie, chiese, cascine, centri certo. storici, ville meravigliose, ecco, può veramente diventare una risposta per quel 42% di milanesi che non andranno in vacanza quest'anno, una risposta del tutto compatibile, raggiungibile in treno, girabile con delle biciclette, con degli agriturismi pronti a accogliere con dei prezzi molto ragionevoli, in un contesto che, nonostante la densità che oggi l'urbanizzazione intorno a Milano nella parte nord ha superato l'80%, 80% di superficie urbanizzata sulla totale, ancora oggi ha gli spazi liberi meravigliosi, ancora oggi un'attività agricola fiorente, grazie anche a politiche lungimiranti come quella del Parco Agricolo Sud Milano, per esempio, che ha salvato il Sud Milano da una cementificazione che purtroppo non si è riusciti a controllare. Ecco quindi che questo rapporto veramente va recuperato da diversi punti di vista ed è un'opportunità straordinaria. In tante direzioni, certo. Devo come dice, la interrompo perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie a Giovanni Sala, ricordo presidente Archimede Energia, Andrea Schipar, presidente di Green City Italia. Abbiamo parlato di Milano, dello Smart City Point che è stato inaugurato a Milano, è nato dalla collaborazione tra le associazioni Castelli e Ville Aperti in Lombardia e appunto Green City Italia con il patrocinio del Comune di Milano. Da Laura Bettini, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.